e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno cara la mia Nicoletta, eccoci qua. Allora, 4 luglio oggi chiuso Wall Street, che non ti venga in mente oggi di comprarti qualche titolo americano perché no. L'ordine non va a buon fine. Resisterò. Ce la fai? A questa tentazione terribile. Però puoi sempre negoziare qualche titolo a Francoforte. Qualche giorno fa si è quotata una società importante che è quella che gestisce il business di Foodora, non so se tu lo conosci. Certo. Il delivery vedo, food. Eh? Esatto. Vedo e noi ragazzi appollaiati vicino a casa mia. Brava, proprio di loro parleremo questa mattina. Cercheremo di capire qualcosa in più rispetto al funzionamento di questa attività, ma soprattutto cercheremo di fare chiarezza su tutte le contestazioni che si sono mosse nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sui rapporti contrattuali che hanno questi ragazzi, molte polemiche che sono partite soprattutto da Torino. Oggi si è reso disponibile per noi l'amministratore delegato dell'azienda. E quindi 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi e raccontateci, perché è anche un'occasione, tanti ragazzi magari lavorano, vogliono fare questo lavoretto ma un po' anche intimoriti da queste polemiche, magari neanche mandano il curriculum, che ne sai. Invece secondo noi è una buona opportunità, a patto di conoscere sin dall'inizio per bene le condizioni contrattuali, le condizioni di lavoro. Sicuramente il lavoro, la ricerca del lavoro, Deborah, è una situazione che genera preoccupazione, genera anche ansia, e proprio di questo, come abbiamo anticipato ieri, di ansia parleremo nella seconda parte del programma. L'ansia non ha stagioni, ma ha le sue stagioni, e l'estate è una stagione un po' particolare, un po' a rischio. Vogliamo sapere da voi se vi capita di dire o di pensare "oddio che ansia", perché usate questa espressione e soprattutto cosa intendete esattamente. Volete provare a raccontarcelo? Se avete la sensazione che il vostro livello di ansia abbia superato i limiti da voi tollerati, se notate che magari situazioni e occasioni per gli altri assolutamente normali, quotidiane, stanno diventando per voi un problema, chiamateci, perché noi siamo qua, un numero verde anti-ansia, o per cercare di capire come affrontare quelle situazioni che generano, ci mettono in allarme. Andiamo! Rapidamente la borsa, ieri giornata di rialzi sostenuti sui mercati finanziari internazionali, ci scherzavamo poco fa, ma in realtà ribadiamo che oggi sono chiuse le contrattazioni a Wall Street perché è il 4 luglio, festa dell'indipendenza, per cui si ritorna a rinegoziare sul mercato americano domani. Ieri peraltro è stata una buona giornata per il mercato statunitense, perché anche se ha chiuso 4 ore prima, gli indici sono riusciti a mettere a segno nuovi record, anche se sul finale hanno un po' ridimensionato il Dow Jones in particolare modo la loro corsa, c'è stato appunto un nuovo ritocco sui livelli record già toccati più volte negli ultimi mesi. Per quello che riguarda l'Europa abbiamo una serie di prese di profitto sugli indici europei: Parigi meno 0,14, Francoforte meno 0,26, Londra meno 0,24, Milano, che ieri è stata la regina d'Europa, oggi è stabile sulla parità, quindi si consolidano i rialzi di ieri. Sono ancora in crescita tutti i titoli del settore bancario: UbiBanca più 2,60, BPR Banca più 1,68, ricordiamo dati recupera il calo di ieri, più 1,35%, Unicredit più 1,18%. I cali più forti: Ferrari meno 1,5%, ribasso di 1 punto per Italgas, Telecom, Leonardo e Terna. Andiamo subito al tema di questa mattina. Allora, Uber, Airbnb, Enjoy, Car2Go, nomi che sono assolutamente per noi ormai strafamiliari. Abbiamo affrontato tante volte il tema della sharing economy dai nostri microfoni, affrontando numerosi aspetti, da quelli più innovativi e positivi per l'economia e per i consumatori, a quelli che invece hanno dato anche spazio a contestazioni e al malcontento di qualcuno. Il settore di cui vogliamo parlare oggi è quello del food delivery, per dirla con il gergo anglosassone che indispettisce sempre i nostri ascoltatori, cioè della consegna a domicilio del cibo. Dov'è la novità? Allora, la pizza ce la consegnano a casa già da anni, però insomma prima chiamavamo la pizzeria di fiducia e il fattorino veniva lì. Adesso il settore è cambiato completamente e certo, c'è un vero e proprio boom negli ultimi anni grazie all'attivazione di diverse applicazioni tecnologiche e piattaforme dalle quali è possibile prenotare e farsi consegnare a casa o al lavoro il pranzo o la cena dai nostri ristoranti preferiti. E anche qui cosa c'è di strano? Niente, se non fosse che c'è un tema specifico che ha fatto fatto molto parlare negli ultimi mesi il fatto che le consegne vengano fatte da lavoratori in bici o scooter, i rider per l'appunto, che ritirano il pasto e lo consegnano all'utente finale, con contratti che sono stati messi in discussione da molti osservatori. C'è stata anche una denuncia forte che è arrivata proprio da Torino con una manifestazione di protesta da parte dei lavoratori, dei ragazzi, perché sono soprattutto giovani e giovanissimi gli impiegati della società che appunto parliamo, di cui parliamo in particolar modo questa mattina, proprio per parlarci di questo mondo, di come è cambiata anche l'attività di ristorazione, oltre che la sua fruizione, ma anche per rispondere alle domande sulle proteste recenti dei rider. Oggi, come vi anticipavo poco fa, si è reso disponibile a Cuore Denari Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora per l'Italia, che salutiamo. Benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Allora, intanto Nicoletta non è arrivato in bicicletta, noi eravamo qua ad aspettare il sushi a domicilio. No, è collegato telefonicamente da Roma. Peccato. Per cui, no, perché noi ieri abbiamo fatto Cocco un picnic vintage qui in studio e quindi ormai ci siamo viziate un po' e volevamo proseguire questa tradizione, ma ci è andata male oggi. Faremo una consegna secondo il, faremo un ordine secondo il criterio formale, che è quello di fare appunto la domanda con l'applicazione, scaricando l'applicazione sul nostro smartphone. Comunque, adesso a parte tutti gli scherzi, 800 24 00 24 è il numero verde che mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori. Se hanno delle domande sul funzionamento di queste attività, se hanno delle curiosità a cui nessuno ha ancora dato risposte, per capire come funzionano effettivamente i rapporti di lavoro in queste aziende, se volete componete il numero verde, ma anche se siete dei ragazzi che magari avete la pausa tra un esame e l'altro all'università e volete guadagnare qualcosina, lo volete fare con loro, però insomma avete sentito sicuramente anche delle polemiche degli ultimi giorni, allora magari questo aspetto vi ha un po' scoraggiato, cercheremo di chiarirlo. Tra l'altro, Cocco, la società si è quotata in borsa in Germania proprio da pochissimi giorni, quindi faremo anche, glielo anticipo, una piccola analisi sulla sharing economy alimentare in borsa, chi sono i campioni, poi lo capiremo. Allora, Foodora nasce in Germania qualche anno fa e nel giro di pochissimo è sbarcata anche in Italia. Prima di raccontarci la storia dell'avventura italiana, ci spiega esattamente cosa significa fare delivery food? È proprio banalmente la consegna del cibo di un pasto a casa? Foodora consegna a domicilio i piatti di ristoranti di qualità in 30 minuti, quindi il servizio a domicilio esiste chiaramente da decadi, da anni. Quello che adesso cambia è l'offerta di ristoranti con un livello di servizio molto più elevato di prima, perché appunto in 30 minuti si hanno piatti di qualità a casa oppure in ufficio. Foodora poi è una piattaforma che di fatto fa incrociare di fatto tre esigenze: da una parte i consumatori, che sono sempre più esigenti in termini di qualità del cibo, ma anche di varietà, e hanno sempre meno tempo per cucinare. I ristoranti, quelli appunto di qualità, che un tempo le consegne a domicilio neanche le avevano mai immaginate, ma che hanno una cucina potenzialmente in grado di realizzare più ordini rispetto ai coperti in sala. E infine i rider, che sono alla ricerca di un'occupazione caratterizzata da modalità, tempi, disponibilità flessibili, che si adatti alle proprie esigenze di studio oppure di un secondo lavoro. Cocco, senta, siccome io voglio far ben capire quello che fate, come lo fate, per chi lo fate, e come al solito noi abbiamo addosso la maledizione dei telefoni, adesso vado in onda con il traffico che Carmelo Lauricella ci manda, ripristiniamo la telefonata con lei, vediamo se riusciamo a fare un collegamento di miglior qualità dopo aver fatto 18 tentativi prima di partire, ci riproviamo tra pochissimo. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Dal 9 luglio, ogni domenica alle 12, su Radio 24. Cuore e denari. Abbiamo ripristinato la telefonata con Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, gruppo leader nel delivery food. Stiamo spiegando che cos'è questo fenomeno che ha cambiato profondamente sia la ristorazione italiana, perché come ci spiegava poco fa, uno dei vantaggi del proporre questo modello è quello di far esprimere la piena potenzialità delle cucine anche dei ristoranti quando magari in sala un po' la situazione langue e chiaramente qua ci si può accontentare un numero maggiore di consumatori. Consentire alle persone di avere sempre cucina di qualità a casa, anche se non si ha il tempo di cucinare, perché sarebbe meglio anche così, Nicoletta, tu che dici, già ti vedo sorridere, e poi dare lavoro a molti ragazzi, piccoli lavoretti. Però questo è il punto un po' dolente dell'attività di Foodora degli ultimi mesi, sul quale torneremo fra un istante. Però Gianluca Cocco, lei ha pensato di portare Foodora in Italia facendosi ispirare anche in un ufficio simil garage, un po' alla Steve Jobs, un po' come è successo ai fondatori dell'azienda in Germania, che erano due amici e che lo stesso si sono inventati appunto questa azienda proprio nella modalità Apple. Sì, esattamente, siamo partiti a fine... Com'è bello, forte, esatto, chiaro. Esatto, ma perché non ci abbiamo pensato subito? Andiamo. Adesso ci siamo. Abbiamo iniziato a fine 2015 a Milano, praticamente da un appartamento con un garage, come giustamente lei ha detto, assieme ad altre due start-up. E poi, dopo che appunto il panorama milanese ha risposto molto bene, abbiamo deciso di allargare il servizio prima a Torino, sempre a fine 2015, e poi a fine 2016 a Roma e Firenze. Al momento e dalla data di nascita siamo riusciti ad aumentare il portafoglio ristoranti fino a 1200 esercizi in tutta Italia, nelle quattro città appunto dove siamo attivi, con una flotta di circa 900 rider. Quindi è vero quello che diceva prima, cioè diamo lavoro a moltissimi giovani. 1200 ristoranti in quattro città d'Italia, ma è un modello che è possibile realizzare solamente nelle grandi città italiane, insomma nella provincia, può arrivare ovunque secondo lei, perché un'altra delle criticità può essere questa, no? Sicuramente è un modello che porta dietro molte complessità, ma il nostro obiettivo è quello di farlo diventare un servizio nazionale, motivo per il quale entro la fine del 2017 apriremo in altre quattro città e cercheremo di raddoppiare il numero di ristoranti nel portafoglio, anche perché proprio per mantenere il livello di servizio di piatti di qualità consegnati in 30 minuti, l'idea è quella di avere i migliori ristoranti per ogni quartiere della città, perché chiaramente non è possibile consegnare una pizza, un sushi, un burger piuttosto che connettico da un punto della città a quello opposto, ma l'idea è quella di consegnare a casa i migliori ristoranti che vadano a coprire tutte le tipologie di cucina. Razionalizzare un pochino anche in questo senso, quindi. Assolutamente. Avevi assolutamente. Una domanda? No, Nicoletta? volevo sapere se cucina qualche volta o si fa sempre portare il pranzo a casa, perché sarebbe un uomo da sposare. Poco. In realtà non abito in una di queste quattro città, quindi abito in realtà a Pavia, in una città dove il servizio non è attivo e di fatto cucino sempre. Bravo. Senta, allora, usarvi è abbastanza facile, soprattutto per le giovani generazioni, ovviamente l'utilizzo delle applicazioni su smartphone ormai è un gioco da ragazzi. Cosa bisogna fare? Iscriversi alla piattaforma e poi per fare la prenotazione appunto del pasto, scegliere il ristorante, nel giro di poco tempo arriva il pranzo, la cena, lei ci diceva prima 30-35 minuti, è necessario un abbonamento o basta scaricare la piattaforma? No, assolutamente basta scaricare l'applicazione per iOS o Android oppure collegarsi a www.foodora.it e registrarsi assolutamente in maniera gratuita, inserire l'indirizzo di consegna, a quel punto il sistema visualizzerà il cliente, i ristoranti che possono essere consegnati a quell'indirizzo. Si entra nella pagina del menu del tal ristorante, una volta scelti i piatti, si completa l'ordine con pagamento con carta di credito PayPal e si aspettano appunto 30-35 però minuti. Però bisogna fare un po' meno se naturalmente consegniamo ad esempio, non so, il gelato. Certo, se il rider è vicino, naturalmente magari al negozio vicino, dove deve andare a prelevare il pasto o appunto il gelato e quant'altro. Senta, se un cliente è insoddisfatto del servizio, che cosa succede? Perché i rider sono dotati di questo box termico speciale che immagino abbiate voi e lo mettiate a disposizione appunto dei consegnatori, no? Ammettiamo che il pasto arrivi non buono, non caldo, non della qualità realtà, si può scatenare anche una conflittualità di questo tipo con i vostri partner commerciali, diciamo, no? Che devono garantire evidentemente il miglior servizio possibile al cliente. Quanto ne rispondete voi, ecco? Assolutamente, Foodora si occupa di gestire il cliente dal momento dell'ordine alla consegna. Abbiamo un servizio clienti che è raggiungibile via telefono, via mail, con messaggi su Facebook o via chat, e rispondono e rispondiamo e gestiamo in tempo reale tutte quante le richieste di contatto, ad esempio relative a problemi dovuti all'ordine, e di fatto col cliente, col ristorante ci facciamo carico di eventuali rimborsi oppure di buoni sconti per un prossimo ordine se c'è una problematica, assolutamente. Certo. Quanto costa il vostro servizio? Allora, no, come dicevo, il servizio e l'utilizzo dell'applicazione è assolutamente gratuito. Sì. Abbiamo un minimo d'ordine di 10 euro più 2,90 euro IVA inclusa di spese di consegna, che è indipendente dal quantitativo dell'ordine. Quindi sia che ordino una pizza, sia che ne ordino 10, la spesa si è paga fissa, 2,90 euro fissi, esattamente. Ecco, poi perché questo è importante precisare questa quantificazione, perché da qui ne deriva anche tutta la questione della remunerazione ai rider, che ha scatenato l'ondata di proteste partite da Torino che si sono poi propagate anche altrove. Detto questo, le chiedo un attimo di pausa, Cocco, perché la sharing economy in borsa c'è andata, soprattutto in questo settore, nel food delivery. Ancora gli altri grandi big non si sono quotati, poi bisogna vedere anche che cosa si intende per sharing economy, perché tante volte dentro a questo calderone ci mettiamo tutto, persino LinkedIn, Facebook e i social network, che quelli sono già quotati in borsa e fanno il bello e il cattivo tempo di Wall Street, in particolar modo sul settore tecnologico. Ma Foodora si è quotata alla borsa di Francoforte proprio il 30 giugno ed è andata anche bene. Ma cosa ci racconta questo settore quotato? Pietro Calì, Copernico Sim, buongiorno. Ha studiato per noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ha fatto una panoramica generale. In realtà ha fatto un confronto fra l'andamento in borsa di Foodora e altri due grandi competitor che invece sono quotati a Londra. Come stanno andando, Calì? Sì, beh, questa mattina Delivery Hero, che appunto è la holding di Foodora, è partita molto bene, siamo sopra lo 0,6%. Ovviamente è un mercato che sta crescendo molto, in generale stiamo crescendo del 3,5% l'anno come settore. Ovviamente con cosa cresce del 3,5% il business, crescono, il fatturato, la quota di mercato? Il fatturato appunto sta crescendo del 3,5% l'anno. È ovviamente un settore nuovo, quindi è anche difficile valutarlo. Gli analisti danno dei numeri, ma ovviamente gli investitori attualizzano i flussi futuri, e è un settore davvero difficile da comprendere. Se guardiamo i competitor principali di Foodora, perché Foodora appunto è appena stata quotata, ecco, sono andati molto bene. Si parla di appunto Just Eat, che ha fatto più 150% dal 2014, quindi è cresciuta molto anche dal punto di vista del fatturato e dell'utile. Takeaway, nonostante sia in perdita, anche lei comunque ha avuto una buona crescita del 60%. Quindi in generale il settore sta dando ottimi risultati per i propri investitori, nonostante alcuni numeri non siano così positivi, perché un'azienda in perdita ovviamente non dovrebbe risultare così profittevole dal punto di vista dei prezzi azionari. A 30 secondi, Calì, quindi vantaggi e svantaggi dell'investimento in un settore come questo dal punto di vista dell'analista finanziario? Dal punto di vista appunto dell'analista si può vedere come un settore come questo abbia bassissime spese fisse, che è un valore aggiunto importantissimo per le aziende, perché basse spese fisse possono permettere una redditività e una marginalità sempre maggiore al crescere dei volumi. Ovviamente bisogna stare molto attenti all'aspetto normativo, perché le normative cambiano molto spesso, e come abbiamo visto poco fa, appunto l'inquadramento anche dei dipendenti potrebbe essere un fattore negativo in caso, certo, appunto di cambiamento normativo. Basta vedere tutta la questione su Airbnb, quanta confusione sta generando. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, poi ritorniamo con Gianluca Cocca, amministratore delegato di Foodora Italia, tra pochissimo. Cuore e denari. Per la prima volta i riders in maglia rosa di Foodora hanno scioperato per chiedere una paga più alta e tutele maggiori. Non si lavora! Alessandro ha 26 anni, vive con i suoi a Milano e sta preparando la tesi in scienze politiche. Ogni giorno all'ora di pranzo in bici consegna pasti a domicilio con Foodora, l'app nata in Germania 2 anni fa e approdata in 2 città del nord. Perché ci hanno messo a consegna? Perché c'era gente che non faceva niente e visto che venivi pagato all'ora, venivi pagato. Magari uno stava fermo, prendeva soldi lo stesso. Invece a consegna, se tu non fai niente, non becchi i soldi. 2,70 euro consegna per portare a domicilio il cibo dei ristoranti. Hanno protestato i rider di Foodora. E noi torniamo alla nostra chiacchierata con Gianluca Cocca, amministratore delegato di Foodora per l'Italia. Ovviamente ci passerà la battuta che abbiamo fatto fare il biglietto da visita dell'azienda in tutte quelle funzionalità particolarmente apprezzate dalla ristorazione dei consumatori. Adesso andiamo invece a quella vicenda un po' spinosa per la quale siete stati catapultati alla ribalta della cronaca qualche mese fa. Sa, noi abbiamo molto a cuore il tema del lavoro per i giovani, dottor Cocco, per cui ci piacerebbe proprio capire qual è la dinamica che sta dietro al rapporto di lavoro tra voi e i vostri riders, i giovani che impiegati per la consegna appunto del cibo, per capire effettivamente se hanno avuto senso, ma immaginiamo di sì, le proteste dei ragazzi, e perché non si può fare qualcosa di meglio che li soddisfi un po' di più. 900 collaboratori, ci racconta intanto un po' la giornata tipo di un rider? Intanto devono avere la loro bicicletta, il loro scooter, giusto? Corretto, innanzitutto la volevo ringraziare per la domanda che mi dà l'occasione di tornare su un argomento sicuramente per noi molto importante, perché i rider rappresentano comunque il cuore della nostra attività e i nostri obiettivi di crescita, l'espansione in altre città, in tutto quanto il paese italiano non possono prescindere dalla loro soddisfazione. Per quanto riguarda la loro giornata tipo, in realtà, essendo caratterizzata dalla massima flessibilità, non esiste, nel senso che sono proprio i rider che, essendo completamente autonomi, decidono quando lavorare, sia come giorno della settimana, sia come orario, anche in funzione delle loro altre attività primarie, come ad esempio lo studio. Infatti l'età media dei nostri rider è tra i 22 e i 24 anni. Per quanto riguarda il contratto che utilizziamo, è quello più tutelante del settore e che ad esempio non utilizzano altri player. Infatti Foodora paga contributi INPS, assicurazione per infortuni INAIL, oltre che farsi carico di un'assicurazione che copre i collaboratori nel caso in cui questi facciano dei danni a terzi durante l'attività, quale ad esempio urtare una macchina. Ah. E quindi in realtà è vero che a ottobre abbiamo avuto sicuramente una protesta a Torino, è anche vero che siamo un team di 35 persone con età in ufficio che gestiscono quindi tutto quanto il modello di Foodora in Italia, con un'età media di circa 26 anni, e quindi forse c'è stato qualche problema di anche comunicazione interna. Anche lei è un under 30? Posso chiedergli? Sono da poco trentenne. Da poco ho compiuto 30 anni. E anche lui sarà dei gemelli come noi, allora. Certo. Perché dici così? Perché insomma giugno dei gemelli. Magari no, sarà... ho detto... Da poco inteso quest'anno. Forse di gennaio. Allora, niente. E quindi insomma lei dice la giovane età giustifica il fatto che la retribuzione sia così bassa, Coccola, forzo un po' questa considerazione, non credo che lei volesse arrivare a questo, ma cosa voleva esprimere la questione anagrafica? In realtà c'è stato sicuramente un problema di comunicazione interna ed esterna durante le proteste di Torino che abbiamo superato, nel senso che comunque... Si tratta di un numero limitato di collaboratori e che da allora abbiamo dimostrato sul campo che il nuovo meccanismo di compensazione è più remunerativo di quello precedente. Perché voi praticamente siete passati dalla retribuzione oraria a quella a consegna. Allora io mi chiedo, per un giovane che in una giornata mette a disposizione 4 ore del suo tempo perché ha studiato tutto il pomeriggio, la sera dalle 18 alle 22 si mette a disposizione di Foodora, in media quanto può guadagnare, Cocco, per capire se ci si sta dentro, se poi magari, ecco, la retta universitaria si può pagare con questo lavoretto part-time, o se le serate sono scarse, hanno ragione anche i ragazzi, posso stare lì mano nelle a braccia incrociate senza portare a casa granché. In realtà Foodora riesce ad assicurare più di 2 consegne all'ora, per cui lavorando circa 4 ore al giorno per 5 giorni lavorativi, e quindi grosso modo un contratto di 40 ore al mese, riescono a guadagnare circa 630 euro netti al mese, che corrispondono circa 700 euro lordi. Quindi in realtà abbiamo notato che il compenso su base consegna è di circa il 20-30% più remunerativo rispetto a quello ad ore. E insomma, quindi questo è chiaro dall'inizio, poi naturalmente no, leggevo anche con curiosità quanto riportava la stampa ricostruendo quello che era avvenuto appunto a Torino, di qualcuno che si lamentava dei ragazzi. Non è un giudizio quello che do, ricordo quello che è scritto in questo articolo che ho trovato, che si lamentavano del fatto che lavoravano naturalmente in qualunque condizione meteorologica, in condizioni di traffico naturalmente molto anche pericolose. Detto questo è il lavoro, credo che almeno da questo punto di vista Foodora non possa intervenire più di tanto, migliorando le condizioni climatiche. Se una sera piove, le consegne bisogna farle lo stesso. Detto questo, sicuramente poi su quelle economiche magari in futuro ci saranno delle prospettive migliori di migliorare un po' le condizioni contrattuali, Cocco, o no, perché comunque è un lavoro, per carità, lo possiamo associare sicuramente al tema del lavoretto per pagarsi le spese, però non è proprio banale, poco faticoso. No, secondo noi tutti quanti i lavori meritano lo stesso rispetto e la stessa dignità, quindi assolutamente un lavoro a tutti quanti gli effetti, anzi su alcune dichiarazioni riportate in un primo momento dalla stampa in una certa misura non mi ritrovo, perché sono state mentalizzate. Detto questo, è vero che il nostro business è molto peculiare, nel senso che il 70% degli ordini arrivano in due fasce del giorno, cioè il pranzo e la cena, quindi anche il mal si concilia con un contatto normale, standard, tradizionale, chiamiamolo, da 8 ore. Detto questo, come dicevo prima, rispetto anche ad altri player del settore, siamo quelli che danno più tutele, perché siamo contributi grazie al contratto che sottoscriviamo con loro, abbiamo le assicurazioni per danni a terzi e anche l'assicurazione eventuali infortuni. Certo. Quindi da questo punto di vista abbiamo poi anche dimostrato che a livello di compenso il contratto a consegna è più remunerativo rispetto a quella d'ora. Cocco, ricevete altri curriculum? Se qualcuno volesse candidarsi, non intimorito o non preoccupato rispetto a questi aspetti che abbiamo spiegato fino a questo momento, può farlo? Voi in questo momento pure siete full, siete a posto in quanto a, tra virgolette, personale e rider? Quello che ci fa più piacere è che in realtà continuiamo a ricevere una grande quantità di candidature per fare rider in Foodora. E quindi in realtà chiunque fosse interessato può candidarsi sul nostro sito www.foodora.it piuttosto che contattarci via Facebook o via mail. Senta, ci sono molte ragazze che fanno questo lavoro? Ci sono anche diverse ragazze e sono anche tra le collaboratrici più, diciamo, abili. Sì, assolutamente. Addirittura a maggio abbiamo fatto anche una campagna diciamo sociale. Vabbè, hanno fatto una campagna, la perdiamo ogni tanto. Abbiamo utilizzato diversi rider. Abbiamo utilizzato diversi volti femminili dei rider donna, proprio per far vedere quello che è il futuro nelle mani delle donne di Foodora. Senta, un ultimo aspetto, un secondo e poi la saluto. C'è un ascoltatore che su WhatsApp ci segnala il fatto che per massimizzare le consegne e sbrigarsi nel traffico sono un po' avventurosi i vostri rider. Mi raccomando, trasferite loro anche tutte le raccomandazioni necessarie per non ammazzarsi in strada, intanto per la loro sicurezza, per la sicurezza e l'incolumità di tutti quelli che viaggiano poi attorno, per non danneggiare le e anche per i loro genitori che saranno in ansia, diranno preso la bicicletta, va a fare le consegne. Va bene, senta, prossima città in cui avete intenzione di aprire? Sicuramente Bologna-Verona e poi un altro paio entro la fine dell'anno. Grazie a Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia. Abbiamo conosciuto qualcosa in più rispetto a questo mondo, anche prendendo spunto non solo le proteste di Torino ma anche della recente quotazione in borsa, visto che da qua mercato azionario lo monitoriamo, vediamo un po' i titoli nuovi che si quotano, che peraltro vanno anche piuttosto bene. Nicoletta, l'ansia dei genitori, dicevi tu, introduciamo sai, adesso. Sai, perché il traffico. Esatto, andiamo. Dice quando vuoi, ma io vorrei ascoltarla ancora un po', l'avrete riconosciuta in sicuramente tanti. La voce potente, profonda, emozionante di Adele, la cantante inglese che è tornata a far parlare di sé perché recentemente ha cancellato le ultime date a Wembley dal suo tour mondiale per problemi alle corde vocali. Ma la sensazione è che ci sia qualcosa di più. Infatti lei stessa ha dichiarato già in altre occasioni che le esibizioni dal vivo la fanno sentire vulnerabile, insomma va in ansia, e da qui proprio partiamo oggi per parlare di ansia. Sappiamo che serve perché ci aiuta ad affrontare la vita e anche superare i cambiamenti che necessariamente la vita ci impone, ma sappiamo che è anche facile rimanerne ingabbiati e sopraffatti. E quindi da amica, da alleata su cui contare, trovarsi la nemica, una nemica da fronteggiare, combattere, con cui fare i conti. Capita a tutti, capita ad Adele, quindi a personaggi noti dello spettacolo. Ciascuno di noi si confronta con la sua ansia, con l'ansia buona, con l'ansia invece che, superando i livelli di guardia, può veramente in qualche modo rovinarci la vita. E oggi impareremo a evitare che questo accada, e ci aiuta un grande amico di Cuore Denari, il dottor Francesco Aquila, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, autore di numerosi libri di cui noi parliamo spesso. Sì. L'ultimo è Condividere i ricordi, Franco Angeli editore. Buongiorno dottor Aquila, bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Possiamo naturalmente, anzi potete, ma io e Deborah lo facciamo, anche leggere i post del dottor Aquilar sul nostro Daily Lab, che sono molto apprezzati. Intanto inizio subito, invece che fare la domanda al dottor Aquilar, a dare la spazio ad Aldo, che ci chiama da Torino all'800 24 00 24, così entriamo subito nel tema. Aldo, buongiorno, grazie. Buongiorno. Vede, a lei il compito è di aprire il tema, che è una cosa abbastanza... perché lei deve catturare un po' l'attenzione dei nostri ascoltatori. Vediamo come se la cava. Facciala Nico, la Deborah della situazione. Va bene, ci provo. Diciamo che l'ansia, come detto voi prima, è un qualcosa che va gestita in maniera razionale. Io ho notato che nell'arco degli anni è l'età che mi porta a vivere con più ansia stesse problematiche, stesse vicende, che invece 15-20 anni fa le vivevo, sì, in diciamo modo un con po' la giusta più spensierato, carica. È vero. Giustissima, ecco, diciamo forse perché la famiglia, i figli, cioè mi portano a essere molto più responsabile su tante cose. Una volta dicevo, ma quella cosa lì si fa, adesso invece la prendo di punta, a tal punto che anche mia moglie mi dice, ma dai, adesso non stare lì a fare diventa un matto, noto che con l'andare degli anni l'ansia a volte ti cattura in una maniera che a volte mi preoccupa, no, preoccupa anche me stesso, perché dico, ma porca miseria, ma perché me la devo prendere così tanto questa cosa? E però poi non è che sia così facile da gestire, ecco. Quindi certo, l'appello che io faccio è come gestire diciamo l'ansia positiva, perché poi l'ansia ti fa anche le cose fatte bene, perché a volte il menefreghismo ti porta a fare degli sbagli. Ci vuole il giusto. Il giusto. Grazie, il giusto. Grazie Aldo, non a caso da Torino, città che abbiamo nominato più volte. Stamattina, vedi oggi è la giornata piemontese, non è marchigiana, strano. Allora, 800 24 00 24, questo è l'invito di Aldo, siamo partiti dalla storia di Adele, un ascoltatore ci scrive se va in ansia forse ha sbagliato lavoro. Non credo, perché i suoi successi e poi anche le persone che hanno grande successo si confrontano con l'ansia. E soprattutto a voi che ci ascoltate, a quale palco, tra virgolette, rinunciate per colpa dell'ansia o fate fatica ad affrontare, proprio dovendo in qualche modo fare i conti con l'ansia? Dottor Aquilar. Allora, nel caso di Aldo da Torino c'è il rapporto tra ansia ed esperienza di vita. Noi abbiamo le ansie giovanili delle persone che sono inesperte e che quindi si raffigurano la realtà come potenzialmente pericolosa, ma abbiamo anche le ansie dell'esperienza, quelle che arrivano con gli anni, perché le persone hanno imparato che possono succedere molte cose sgradevoli. Certo. E anche in questo caso si tratta di monitorare i propri pensieri, soprattutto alcuni pensieri automatici catastrofici o iperpreoccupati, e di ridimensionarli stando molto attenti alle proprie emozioni. Quando diciamo ansia, dottor Aquilar, pensiamo ad una serie di situazioni, di sintomi fisici e mentali che spesso convivono alimentandosi reciprocamente. Sappiamo che ci sono delle persone che l'ansia la vivono più nel corpo, tanto che si dicono somatizzo, e altre più nella mente. Certo, certo, e sono le due componenti dell'ansia, perché ci sono, sostanzialmente sono tre, delle emozioni che a volte non vengono riconosciute, e quando non riconosciamo qual è l'emozione alla base dell'ansia, abbiamo quella sensazione di paura senza oggetto. Sì. Poi ci sono delle reazioni fisiche di allarme e di preparazione alla fuga o all'attacco, in qualche modo rispetto ad un problema, ma se il problema è mentale non possiamo né sfuggire né attaccare. E poi ci sono una serie di pensieri che possono essere ricorrenti e che possiamo in qualche modo imparare a gestire, ma soprattutto a ridimensionare. Allora, di che cosa ha bisogno, quali informazioni dai nostri ascoltatori vuole avere, dottor Aquilar, per riuscire ad essere molto concreto e a dare loro degli strumenti per provare a rimettersi un po' in equilibrio, uscire da questa sorta di gabbia su cui a volte finiamo e in cui l'ansia ci costringe? Dottor Aquilar? Sì, sì, c'è una reazione. Intanto dobbiamo sapere che l'ansia è paura. Non mi faccia venire l'ansia, perché adesso se mi cade anche lei dal... Assolutamente, c'era stato un forte attimo di chiaro della linea. L'ansia è sostanzialmente paura, e per qualche aspetto noi possiamo dire a noi stessi è solo paura. Adesso dobbiamo andare a vedere paura di che cosa. Una parte di questa paura è la paura di qualche evento che può succedere e che in qualche modo noi possiamo controllare soltanto limitatamente. Quindi, nel momento in cui ci ricordiamo che abbiamo un controllo limitato sulla realtà e abbiamo esercitato quelle azioni di controllo limitato, ci tocca fronteggiare il secondo aspetto che è collegato all'ansia, che è quello del rischio. Come nel caso di Adele c'è il rischio dell'esibizione, nel caso di Federica Pellegrini, che è la nuotatrice che ha raccontato di essere soggetta ad episodi di ansia sistematicamente, è la paura della performance sportiva. Quindi in qualche modo al primo posto è solo paura, poi dobbiamo cercare di capire paura di che, e la paura di che può essere collegata ad un evento esterno o al ricordo di eventi precedenti negativi che possono ripetersi nella nostra esperienza. Ecco perché serve consapevolezza dei pensieri che facciamo, delle emozioni che sono attivate, e il comportamento, che può essere quello per esempio di fuga da alcune situazioni di ansia, noi possiamo scappare. Dobbiamo stare attenti ad effettuarlo, perché altrimenti rischiamo che la paura aumenti. Certo. Pensiamo ad esempio alla paura dell'ascensore. Io evito e faccio 400 piani del grattacielo a piedi, però poi ogni evitamento mi rinforza la paura. Allora, che cosa evitate per paura della paura? E soprattutto che cosa vi mette ansia? A volte è il pensiero dei nostri familiari. Adesso i figli partono, parlavamo prima dei ragazzi che con Deborah di Foodora, e molto probabilmente i genitori saranno, chissà, preoccupati che il ragazzo sfrecci nel traffico a consegnare cibo. 800 24 00 24, abbiamo Andrea, ci chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi dato questa possibilità. Io non so se posso definirla ansia o qualcosa di differente, però mi ritrovo a fare tutto quello che precedentemente mi era semplice, qualsiasi tipo di problema comincia a diventarmi sempre più pesante. Mi faccia un esempio, Andrea. Fare magari i piccoli contrattempi che ti arrivano, il dover affrontare un piccolo, una piccola manutenzione, diventano fonte di quando prima si affrontavano a cuore leggero, adesso cominciano a diventare fonte di, chiamiamola, ansia comunque. Sì, perché di facciamo difficoltà. Fatica anche, Andrea, a capire esattamente che cosa è il significato di questa ansia. E poi volevo chiedere al dottor Aquilar intanto di aiutarci a dare un significato più preciso a questo termine che usiamo spesso. E poi sia Andrea sia l'altro ascoltatore di Torino rimandano di adesso faccio più fatica. Che come se accumulando l'accumularsi delle esperienze ci portasse ad una visione differente di quello che stiamo facendo e anche a delle emozioni che possono generare quel senso di insicurezza e di fragilità. Ma è possibile anche che sia l'ambiente, cioè la situazione attuale che stiamo vivendo, la paura del terrorismo, la crisi, questa, no, questa società che è così molto tecnologica ma così fragile, che possa in alcune persone così fare un po' da trigger e quindi tirare fuori anche una quantità di ansia che in qualche modo in una situazione più rassicurante veniva tenuta bada? Assolutamente sì. Nel senso che viviamo in una società dell'incertezza, dove le cose cambiano continuamente ad un ritmo più veloce di quello a cui gli umani per milioni di anni sono stati abituati, e poi ci sono le nuove emergenze di questo periodo storico che, appunto, come dicevamo, possono riguardare il terrorismo o i pericoli che si possono essere moltiplicati. In più però c'è anche nell'ansia ci sono alcune situazioni che derivano dalla fase del ciclo di vita che la persona sta attraversando. Ogni fase del ciclo di vita, i 20 anni, i 25, i 30, i 35, portano con sé una serie di compiti più difficili che la persona deve affrontare e che fino a quel momento non aveva mai affrontato. Noi ci fermiamo qui però, dottor Aquilar, perché anche noi abbiamo le fasi, adesso è tempo di mercati, poi ritorniamo subito dopo insieme. Io invito i nostri ascoltatori a prendere il telefono, a fare l'800240024 e sputiamo fuori il rospo. Qualche cosa succederà, secondo me, di buono. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Titolo: ansia, come mantenerla amica? Se vi piace, se no suggeriteci voi il titolo di questa ultima parte di trasmissione, in cui cerchiamo di tornare a farci amica l'ansia, perché l'ansia di per sé non è né buona né cattiva, anzi probabilmente sarebbe buona se rimanesse a certi livelli. Riprendiamo comunque il tema di oggi, sono arrivati già tanti messaggi, richieste di aiuto, chiamateci. Prendete la cornetta 800240024, perché? Perché molto spesso dalle storie e dall'esperienza altrui può arrivare un'idea, uno spunto che ci può essere utile. Ad esempio Sabrina, ho letto il messaggio a Deborah e noi siamo assolutamente d'accordo con lei, e di lì è iniziata una piccola discussione. Mi viene l'ansia a fare tutte quelle cose diverse dal mio solito tran tran. Dottor Aquilar, chissà quanto... Ecco, è vero, viene anche un po' a lei? Viene a tutti, perché l'ansia ci serve per prepararci meglio a eseguire un compito difficile. Per questo noi abbiamo l'ansia degli esami, l'ansia dello sportivo, l'ansia del musicista. L'ansia serve a prepararci nella nostra rappresentazione mentale a svolgere meglio un compito. Questa è la sua funzione fisiologica. Poi può essere in qualche modo starata e diventare troppo forte. E quando c'è un imprevisto, come diceva il nostro ascoltatore Andrea, oppure una cosa diversa dal solito, come diceva la nostra ascoltatrice Sabrina, noi dobbiamo in qualche modo prepararci a prevedere l'imprevedibile, o per meglio dire a sapere che possiamo navigare a vista, ad aumentare quindi la nostra fiducia in noi stessi, e come abbiamo risolto gli imprevisti nelle altre situazioni, possiamo dare a noi stessi distruzione ansiolitica in qualche modo, e potremo farcela anche stavolta. Noi possiamo stamattina cercare di dare alcune informazioni ansiolitiche ai nostri ascoltatori per cercare di fare in modo che si tengano la parte buona dell'ansia, ma non ne vengano sopraffatte e travolte. Allora, iniziamo con i consigli ansiolitici, che mi piacciono molto, che poi mettiamo naturalmente sulle nostre pagine come una sorta di pronto soccorso. Il primo consiglio ansiolitico è di dirsi quando siamo in ansia che è solo paura. Il secondo è: vediamo di capire paura di che. Terzo punto è: non lasciamoci spaventare dalla frase e se, e se, e se. Perché molto spesso l'ansia viene proprio innescata da questo: e se succede, e se arriverà, e se ci sarà quest'altro evento. Nel senso che dobbiamo fidarci di noi stessi, che quando arrivasse l'imprevisto, come abbiamo fronteggiato gli altri imprevisti della nostra vita, saremo in grado di fronteggiare in maniera sufficiente, ma non perfetta, perché l'altro punto dell'ansia è che spesso le persone vogliono affrontare i problemi in maniera perfetta. A noi serve invece di puntare al 6, un semplice 6, e questo già abbassa moltissimo l'ansia. E poi di tenere tutto sotto controllo, perché l'avere la situazione sotto controllo sembra placarci. È un'illusione. Ma è un'illusione, perché lo tocchiamo con mano anche con la tecnologia. Possiamo raggiungere familiari, amici, WhatsApp, il messaggio, la telefonata, ma poi ci viene l'ansia di rimbalzo quando vediamo che, ad esempio, il messaggio è spuntato, ma l'amico non ci risponde. Dove perché sarà? Mi guardi? Io ti dove rispondo sarà? Sempre. No, tu mi rispondi sempre, tranne quando sei in viaggio, che io dico, l'avrà letto o no? Cosa fa quella donna in giro dalle Marche per a Milano? E viene, siamo in qualche modo cerchiamo un'altra situazione per scappare dall'ansia, ne finiamo in un altro calderone che ci fa sobbollire lentamente. Giordano, buongiorno da Verona, poi vado a leggere un messaggio che arriva dalla diretta Facebook che non abbiamo ricordato, ma sì, siamo in diretta oggi. Aspetta che mi metto anche dritta, se non abbiamo ospiti in studio, perché il dottor Aquilar ci chiama da Napoli. E poi abbiamo Fabio dalla provincia di Ravenna. Giordano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io faccio parte di un coro. Ah, che bello. Ecco, quindi ho una voce abbastanza tenorile, bella, discreta, dicono. Cioè, anche il maestro mi dice sì. Però insieme con il mio gruppo canto veramente vado alle stelle. Quando il maestro ci chiede voce per voce, basso, tenore, per fare, io non riesco più a cantare. Non gli esce la voce? Ma un po' come Adele. La voce non mi viene fuori niente. Quindi se io adesso le chiedessi, Giordano, di farci una cantata? Lasci perdere. Perché magari il dottor Aquilar dice che è terapeutico. Dottor Aquilar. È più terapeutico fare degli esercizi di rilassamento e lavorare nell'immaginazione e poi nella realtà preparandosi a quel momento. È naturale che nel nostro ascoltatore Giordano l'ansia, che appunto ha una serie di correlati fisici, gli fa andare via la voce, che è proprio la cosa che lui meno vorrebbe perdere in quel momento. Quello che si farebbe se fossimo nello studio di psicoterapia sarebbe di fare cognitivo-comportamentale, sarebbe di fare degli esercizi di rilassamento, poi di immaginazione. Anche di immaginare che nel momento in cui lui deve parlare la voce non gli viene e tutto l'uditorio si mette a ridere, perché poi dobbiamo anche ridimensionare le conseguenze negative. Cosa capiterà mai? Certo, prego. Però non capita nulla se anche gli viene, la voce non gli viene, si fa una risata e mica Sanremo. L'immaginazione anche delle conseguenze catastrofiche conduce a poter ridimensionare queste eventuali conseguenze catastrofiche, quindi a diminuire l'ansia, e quindi Giordano avrà una voce splendida e tenorile in tutte le occasioni, ma ridimensionando l'aspettativa e anche facendo degli esercizi comportamentali che portano a rilassare tutta la colonna vocale. Andiamo a Fabio, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Ravenna, benvenuto. Salve, buongiorno. In realtà io sono di Lecce, non sono di Ravenna, sto andando a Ravenna. Comunque, va bene, comunque noi la seguiamo, dai. Allora aspetti, rifaccio tutto. Fabio da Lecce, diretto nella provincia di Ravenna. Ti piace di più? Ok. Sì, bellissimo così. No, stavo dicendo, io in questa attesa mi è venuta l'ansia. Questa è la mia sofferenza. L'attesa mi porta ansia. L'attesa di qualunque cosa, anche un appuntamento, se devo andare a un appuntamento, finché non arrivo, finché non sono sul posto, mi viene l'ansia di arrivare tardi, l'ansia di non essere puntuale, l'ansia di creare problemi. Ho questo stato di cose, questa situazione. Ho sentito prima che diceva un signore che lui cantava e gli veniva e non riusciva più a cantare. Bene, io non canto, io suono ogni tanto la chitarra, quando capita che ho amici e suono la chitarra non mi ricordo neanche più una canzone. Ecco, voglio dire, non so adesso se... Cioè, è come se si staccassero delle spine, dei contatti. Non lo so, esattamente. È così. Sì, esattamente. No, ma a volte ho anche paura, cioè sento come una debolezza interna, proprio mi sento debole e paura di affrontare a volte determinate cose, tanto che me lo devo imporre, come mi sto imponendo nel parlare con voi. Dottor Aquilar, Fabio si sta imponendo di parlare con noi, è un buon esercizio? Sì, noi possiamo forzarci, ma dobbiamo forzarci un poco, perché altrimenti è meglio la strategia dell'evitamento. Possiamo fare il passo un po' più lungo della gamba, ma se lo facciamo troppo più lungo della gamba abbiamo un controeffetto negativo. E il nostro Fabio c'ha ovviamente l'ansia da esibizione, che nasconde una paura del giudizio, e probabilmente ha un'abitudine consolidata a reazioni di tensione di fronte ad un compito che arriva. Servirebbe fare degli esercizi di immaginazione che possano ridimensionare questa sua ansia, e dietro c'è anche una parte di perfezionismo, come dicevamo prima. Che succederà mai se arriverò con un quarto d'ora di ritardo ad un appuntamento? Potrò essere leggermente rimproverato, e pazienza. Quindi in qualche modo, puntando alla sufficienza, già si abbassano gran parte delle ansie. Allora, 800 24 00 24, continuate a chiamarci, a scrivere, dalla diretta Facebook arrivano dei messaggi, ma sicuramente il dottor Aquilar poi risponderà. Andremo a fare un salto anche in farmacia, molte persone si rivolgono proprio prima del medico di famiglia, prima ancora di cercare uno psicoterapeuta, vanno dal farmacista e dicono: dottore, ho l'ansia, mi dia qualcosa, mi batte il cuore forte, non riesco più a dormire, sono agitato. Allora, anche noi siamo andati dal nostro farmacista di fiducia, un farmacista amico che ci raggiungerà tra poco. Naturalmente il dottor Aquilar ce lo teniamo stretto, anche il dottor Aquilar è un po' un esperto antiansia. Rimaniamo vicini all'800 24 00 24. Informazioni sul traffico e poi di nuovo insieme. Cuore e denari. La nostra ansia non viene dal pensare al futuro, ma dal volerlo controllare. Abbiamo scomodato anche Khalil Gibran per proseguire nella nostra chiacchierata sull'ansia. E, insomma, tutti veniamo così, facciamo i conti con quei pensieri, con quelle sensazioni, con quella paura del se, come diceva il dottor Aquilar, che è in linea con noi. Dottor Aquilar, volevo affrontare anche con lei il tema della tecnologia, che è diventata una parte sempre più importante della nostra vita, ma se da un lato ci aiuta, dall'altro è diventata una sorta di ossessione. Ne stavamo parlando i microfoni spenti insieme a Deborah. Assolutamente, ma sai che ci pensavo stamattina in metropolitana? Mi sono guardata attorno e avevo 10 persone attorno a me, tutte quante inchiodate con la testa sul dispositivo. Io ce l'avevo in borsa, ho avuto per un attimo la tentazione di andare a vederlo se c'era il messaggio di Nicoletta, di mia sorella o di che altro, mi sono imposta di tenerlo in borsa, quindi anche quella è un'altra forma di ansia. Stamattina dico: no, guarda, non voglio fare come tutti questi che ho attorno a me. E lo tengo e poi lì. Anche l'ansia di essere irraggiungibile, perché quando il cellulare si scarica, non prende, sì, dice se mi cercano e non mi trovano. Dottor Aquilar, no, fino a 10 anni fa nessuno aveva un telefono in macchina. Dottor Aquilar, non so se ottima lei sta facendo la valigia per venire qua, perché siamo due casi molto gravi, ma o a distanza un trattamento va bene. Dottore, ottima la strategia di Deborah di non lasciarsi condizionare da quello che fanno gli altri. Ovviamente la tecnologia e i telefonini, moltiplicando i compiti che noi dobbiamo affrontare, perché ogni relazione in qualche modo include dei compiti, moltiplica le possibilità di ansia, moltiplica le possibilità di ansia da giudizio, avrò fatto bene o non avrò fatto bene a rispondere, e moltiplica le possibilità di ansia da controllo benevolo. Sarà bene mia sorella, sarà bene l'altra persona, sarò irraggiungibile, che cosa succede? E quindi lo sviluppo della tecnologia ci obbliga a fare delle operazioni mentali ancora più forti. Prima dicevate, giustamente, fino a 10 anni fa non si doveva fare tutto questo ed eravamo, come dire, dei risparmiatori di ansia. Adesso invece siamo diventati degli spendaccioni di ansia. Ecco perché anche in questo caso dobbiamo ridimensionare la nostra ansia da telefonino, pensando che in qualche modo il nostro interlocutore se la caverà. E che anche noi possiamo resistere ad eventuali giudizi negativi che ci venissero dati se non abbiamo risposto all'ennesimo messaggio di WhatsApp. Dottor Aquilar, siamo letteralmente presi d'assalto da messaggi che arrivano e non riusciamo a seguire. WhatsApp 800 24 00 24, diretta Facebook. Lei sta un po' con noi su Facebook per i cuori ansiosi, vero dottor Aquilar? Assolutamente a disposizione. Ecco, quindi finita la trasmissione possiamo trasferirci sulla nostra pagina Facebook per chiedere aiuto e soprattutto delle indicazioni al dottor Aquilar, perché con qualche consiglio noi, ad esempio quello che ha fatto Deborah, non voglio tirare fuori, ci misuriamo un po', non tiro fuori il cellulare, sto e vedo che sopravvivo, inizio 3 minuti, poi 5, poi adesso non ce l'ho col cellulare, ma in alcune situazioni metterci alla prova prova e per provare poi alla fine che non succede nulla, ci potrebbe aiutare, potrebbe aiutarci a ridurre il livello di ansia. Dicevamo prima che spesso però quando sentiamo che insomma c'è qualcosa che non ci torna, siamo agitati, preoccupati, in una parola ansiosi, cosa si fa? Si va dal farmacista e si dice: dottore, qualcosa non va, sono agitato, mi sento strano, sono stressato, ho paura, non riesco a dormire, il cuore mi batte a mille. E allora anche noi siamo andati dal nostro farmacista amico, il dottor Paolo Vintani, vicepresidente Federfarma provinciale. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Allora, dottore, vengono da lei in farmacia per chiedere: dottor, mi dà qualcosa? Tanto, tanto, spesso. E il primo atteggiamento che dobbiamo porci è quello di chiarirci se sono già in terapia, perché spesso si avvicinano al farmacista con l'ipotesi di sostituire una terapia ansiolitica, che peraltro è una delle terapie più vendute in assoluto e che non va mai sospesa di colpo. Certo. Per cui questo è il primo accertamento, ed eventualmente parlarne con il medico o coordinarsi con il medico, ecco, questa è la cosa principale. Dottore, ma lei invece quali rimedi dà? Ci sono comunque dei rimedi fitoterapici che possono, bisogna sempre, come diceva il dottor Aquila, andare a monte del problema, capire che cosa ci fa paura, perché siamo arrivati in quella situazione lì, ma abbiamo anche bisogno, no? Che magari la natura, un rimedio fitoterapico, può in qualche modo toglierci temporaneamente questo disagio e darci quindi la possibilità di andare a cercare la causa, magari con uno psicoterapeuta che ci accompagni in un percorso. Certo, ci sono molti prodotti fitoterapici che ci possono aiutare con diverse sfaccettature, dall'ansia più debole, diciamo, più anche del bambino, anche del ragazzino che affronta gli esami, visto che siamo sotto esami di maturità, che può essere l'uso del tiglio, la tiglia tomentosa in macerato glicerico, qualche goccia, non dà sonnolenza, dà calma, va presa anche dalla mamma, consiglio, ovviamente, e a far affrontare molto meglio gli esami. Poi però l'ansia può esprimersi in vari fattori, come può essere quella di tachicardie parossistiche o di tachicardie, affanni, anche legato al caldo. In questo caso il biancospino è un ottimo prodotto. Il biancospino si può usare in capsule o in tintura madre, e 1-2 capsule al giorno o una trentina di gocce di tintura madre 3-4 volte al giorno ha un'azione proprio, non è vero che il biancospino abbassa la pressione, regolarizza il battito cardiaco, che è quello che vogliamo. E invece quella sensazione proprio di non farcela, quella sorta di tristezza, di fragilità diffusa, quando l'ansia insomma colpisce più i nostri pensieri, governa più i nostri pensieri più che la parte fisica? Allora, io ho due rimedi principi. Quando c'è una vera e propria stanchezza, come diceva lei, senz'altro la rhodiola rosea, che addirittura è registrata come farmaco, ed è, anche se è un prodotto vegetale, si trova in varie forme, soprattutto in capsule. La rhodiola rosea è una pianta andina che agisce a livello dei cosiddetti ritmi circadiani, simile alla melatonina. Sì. Quindi è un'azione, non posso dire antidepressiva, ma senz'altro agisce, adattogena. Certo. Il termine corretto è adattogeno, mi fa adattare alla situazione di pericolo, di stress, di ansia, di paura che ho in quel momento. La rhodiola rosea è una pianta bellissima, dice il nostro amico. Dottor Vintani, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie e buon a voi, lavoro. Buon lavoro. Grazie mille. Abbiamo in linea con noi Fabio dalla provincia di Livorno, dottor Aquilar, che in 30 secondi, 30 perché Carmelo ci taglia, ci dice la sua ricetta anti-ansia. Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi tutti. Grazie dell'opportunità. La mia ricetta è proprio telegrafica. Io che non sono un ansioso e vivo in un mondo invece di ansia per il lavoro che faccio, è quello di darmi ogni giorno un piccolo regalo. Bravo. Se mi dà pienezza, anche piccola, però che dico, ecco, ce l'ho fatta, fare una cosa bella per me, ecco, questo è in modo telegrafico. Grazie Fabio per questo bel regalo. Noi, se volete, torniamo domani. Magari più bel saremo regalo di questo, esatto. Dottor Aquilar, grazie. Noi ci sentiamo su Facebook. Grazie, grazie a voi, davvero. Certo. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Torniamo domani. A presto.